Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. You say either, and I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potato and I like potato. You like tomato and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, then that might break my heart. So if you like pajamas. Ed eccoci qua, questa è la sigla di Spirito di Patata. Pajamas, for we know we need each other, so we better call the... Come le nostre fedeli ascoltatrici avranno già riconosciuto, sono le 22:10, questo è il martedì autogestito femministe e lesbiche. È il 16 di aprile. E a parte l'arrivo della primavera, le cose non sono propriamente cambiate. Ovvero non abbiamo ancora fatto la rivoluzione. You like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, chocolate, strawberry. Let's call the whole... Questa sera sono in solitaria, quindi vi farò ridere meno del solito perché da sola mi riesce veramente difficile, ma saluto la mia compagna di avventure, ma è un anno particolarmente complicato e complesso, ma ne verremo fuori. La precarietà, lo sapete meglio di noi, voi che ci ascoltate, è faticosa da gestire, ma bene o male riusciremo a farlo. Intanto... nel mentre che ho trovato una serie di cose che vorrei condividere con tutte voi che mi state e ci state ascoltando, volevo iniziare Spirito di Patata mettendo una canzone di un artista che ha suonato pochissimi giorni fa a Roma. Sto parlando di Kenny Arcana, e ha fatto un bellissimo concerto, e adesso mentre carico la canzone finisco di farvi ascoltare la sigla. Havana and I get Havana, bananas, bananas, Havana, Havana, go your way, I'll go mine. So we better call the calling off. Let's call the whole thing off. Il mix ci stava tutto ed eccola qui. Arrête de nous juger, qui que tu sois et d'où que tu viennes. Parce que l'on vient d'un quartier où on veut bousculer le règne. Parce qu'on est libre et rebelle, Gandhi de mes sur les nerfs. Calme comme le temps ou d'un tempérament nucléaire. Oui, nous sommes l'intrigue aux frontières du réel. Porteur d'un dernier souffle, regarde lorsque la rue se révèle. La mauvaise foi aura un dur réveil. Croire en elle, c'est comme parler de solidarité avec un gars du Medef, ça sert à rien. Ça s'appelle se voiler la face quand l'ignorance se cache derrière son ignorance à part. Il en devient virulent, violent, défenseur de vos rangs. S'accrochant à toutes vos romances, dévorant tout sur son on passe à genoux. Nous sommes le brassage, l'alliage du cœur et de la rage, de la base et de la marche. Nous on fait trembler vos palaces. Voici les troublions, changera le monde que vous le vouliez ou non. Car c'est notre destin que l'histoire nous donnera raison. Écartez-vous si vous êtes trop lâche pour voir la vérité. Laissez passer les esprits libres. Lignée de ceux qui renverseront l'histoire. On ne changera pas le monde si on compte sur les pessimistes. Alors fermez-la maintenant, on en a marre de votre poison. Venez faire péter les cloisons, car c'est l'heure de la moisson. Fermez-la maintenant, bande de propageurs de vibes sombres. Fermez-la maintenant, fermez-la. Pourquoi tu nous prends de haut, sors de ta bulle et on en reparle. On construit pour mieux faire trembler leur rempart. Sache que la beauté de la vie dépend de ton regard. Et que lorsqu'elle me proche, je pars à jamais. Non, y'a jamais d'au revoir. Tout part en live et ça prétend que c'est normal. C'est vos rêves qu'on fait ce monde et il ressemble à un cauchemar. Ne nous fais pas la morale si tiens la tête de leur format. Le cœur qui fait trop mal, tu comprends pas normal. Le tien est dans le coma après des siècles de trauma. Le flambeau n'est pas éteint, il a traversé les siècles et on est plein. On a vu la bête essayer de nous étreindre. Elle est sortie de vos têtes pour nous enfermer dans les grains. Son fils on le connaît bien, ça fait un bail qu'il s'est trahi. Le système n'est qu'une abomination qui s'est bâtie sur les plus faibles voués à s'écrouler, allez leur dire. Mais qui peut être heureux quand tout le vivant est meurtri? Écartez-vous si vous êtes trop lâche pour voir la vérité. Laissez passer les esprits libres. Lignée de ceux qui renverseront l'histoire. On ne changera pas le monde si on compte sur les pessimistes. Alors fermez-la maintenant, on en a marre de votre poison. Venez faire péter les cloisons, car c'est l'heure de la moisson. Fermez-la maintenant, bande de propageurs de vibes sombres. Fermez-la maintenant, fermez-la. On entend vous depuis des siècles, votre parole est monopole. Pédagogie garde à vous, pensée unique et holocauste. Vous êtes en nous, nous sommes en vous. Puisqu'on est l'autre, ressurgit des vieux bûchers. Car aujourd'hui sera notre époque, donc on s'exprime. Et nos idées résonnent partout parce qu'on porte le même cœur. Et qu'on s'est reconnu dans l'autre bande de sorciers. Ça fait un bail que vos mots nous endorment. Arrive à corrompre les notes jusqu'à voir l'enfer reprendre forme. Mais voici le temps des révélations. Qu'ils veuillent ou non, la dernière génération. Avant autre chose, la chute ou l'élévation. On a envers vous aucune vénération. Sans l'accélération, le passage aura la couleur de sa considération. C'est la guerre des esprits, conquête des imaginaires. On arrive à l'heure du choix, à la croisée des chemins. Le choix d'une civilisation, il y a longtemps parti en quête face à son propre destin. Écartez-vous si vous êtes trop lâche pour voir la vérité. Laissez passer les esprits libres. Lignée de ceux qui renverseront l'histoire. On ne changera pas le monde si on compte sur les pessimistes. Alors fermez-la maintenant, on en a marre de votre poison. Venez faire péter les cloisons, car c'est l'heure de la moisson. Fermez-la maintenant, bande de propageurs de vibes sombres. Fermez-la maintenant, fermez-la. Insomma, questo per ricordare, probabilmente qualcuna di voi e più di qualcuna di voi, di quelli che ci stanno ascoltando, era al Forte Prenestino sabato sera a sentire e vedere il concerto di Kenny Arcana, che ha fatto un concerto molto molto bello, ha saputo tenere il palco in maniera veramente agguerrita, una grande artista, molto dal vivo, molto molto molto brava, al di là del messaggio appunto poi politico e militante delle sue canzoni. Ha tenuto a bada direi 5.000 persone sulla mano, meglio sulla voce direi, visto che quello che fa è appunto rappare, molto molto molto in gamba, quindi brava Kenny Arcana, gran bel concerto. Ringraziamo anche chi è riuscito a portarla a Roma. E a proposito di sempre appunto rapper e cose varie, ci ascoltiamo invece una artista italiana ma trapiantata all'estero che si chiama Baby K, che qualcuno sentirà per radio con una canzone super pop e antipaticissima insieme a Tiziano Ferro, ma che invece ha fatto e ha scritto questa canzone che si chiama Sparami, che è molto molto più interessante. Visto che siamo sulla scia, prima di cominciare a raccontarvi qualcosa ci sentiamo pure questa. Prepara la pistola, dito sul grilletto. Sudo freddo mentre aspetto il loro verdetto. Voce nell'orecchio, forse è meglio che smetto. Sono il bacio col rossetto, il rap è il mio colletto. Questo mondo non è mio, appartiene all'uomo. Indovina chi l'ha detto, un altro uomo. Nulla di nuovo, sotto pressione, occhi puntati addosso, colpi nel caricatore. Sono troppo aggressiva, sono solo questa. Mi vorrebbero più figa, sono solo questa. Dovrei fare la signorina, sono solo questa. Il prossimo che arriva, giuro, gli stacco la testa. Questa è la mia vita, mica un film trendy. De Laurentiis che intrattiene gli adolescenti. Parlano di me, colpi in canna, rush roulette. Sparami ma non sbagliare, mira che poi tocca a me. Sparami, sparami adesso. Spara tutto quello che hai ora. Addosso, che dopo non mi fermi mai. Spara, sparami ma non sbagliare, che se tocca a me ti faccio male. Spara, ora o mai più. Sparami adesso. Non è un gioco fatto per le femminucce. Prepara i colpi, revolver, cartucce. Mi vorrebbero intelligente ma non troppo. Scema quanto basta per subire il doppio. Abbozzare il colpo, chiudere un occhio. Sto nell'incubatrice, tenuta sott'occhio. Cosa mi aspettavo? Siete come paese. Parlate di rivoluzione dalle vostre sedie. I miei capi mi adoravano. Non parla parla, so che andrai molto lontano. Parla parla, il mio collega è meno bravo. Nessuno parla, ma guadagnare come lui non se ne parla. Questa è l'Italia, fai prima a darla. Le nostre donne nella tele vanno avanti metodo Carfagna. Un giorno poli diranno pure la lavagna. Sparami che almeno morirò da femmina alfa. Sparami adesso. Spara tutto quello che hai ora. Sparami addosso, che dopo non mi fermi mai. Spara, sparami ma non sbagliare, che se tocca a me ti faccio male. Spara, ora o mai più. Sparami adesso. Non sono come le donne italiane dei film. Tre galline esaurite che sembrano le MILF. Vittime perenni di mille tradimenti, lasciati dal marito che segue i minorenni. Se sono i vostri esempi, morirò stanotte. Lascio la quiete e la banalità, andare a nozze. Chi se ne fotte dell'Italia, che mi insegna come odiarla in base al sesso, la razza, la taglia. Preparate le pistole pallottole, strappatemi i polmoni dalle mie costole. Dinamite sotto il trono del vostro re. A mio tre spara, un, due, tre. Mostri che mi cibano il cervello mentre dormo. La corte è un quindicenne che mi insegna come stare al mondo. Non sono link di Facebook, non devo piacervi. Meglio remita che una vita tra le serpi. Sparami adesso. Spara tutto quello che hai ora. Sparami addosso, che dopo non mi fermi mai. Spara, sparami ma non sbagliare, che se tocca a me ti faccio male. Spara, ora o mai più. Sparami adesso. Sparami adesso. Spara tutto quello che hai ora. Sparami addosso, che dopo non mi fermi mai. Spara, sparami ma non sbagliare, che se tocca a me ti faccio male. Spara, ora o mai più. Sparami adesso. E questa era Baby K con Sparami dal libro. Scusa, allora ormai cominciamo a dire parole in libertà, come al solito, dal disco che si chiama Una Seria. E invece, tornando alle nostre fantastiche vicende italiche, da uno dei nostri siti preferiti, che è Let's Pop, la cultura pop in salsa lesbica, apprendiamo questa fantastica notizia per cui Tierra del Lobos è la censura infinita. E c'è anche una petizione. Ora, cos'è Tierra del Lobos? Non è altro che una fiction di produzione spagnola, dove però c'è una storia tra due donne. E questa fiction va in onda su Rete 4. E che cosa è successo? Tra i protagonisti di Tierra del Lobos, che sta alla sua seconda stagione e che hanno deciso comunque di mandare in onda su Rete 4 dopo aver mandato la prima stagione, ci sono anche Isabel e Cristina, due donne che si innamorano. E siccome appunto in Spagna una coppia lesbica, quantomeno nella rappresentazione, vale quanto una coppia etero, il loro amore viene raccontato a suon di baci, scene di sesso e intimità. In Italia invece si è visto molto poco di questo, e tra le altre cose sono stati censurati diverse scene, e soprattutto non si è visto e non si sono visti i baci. La censura si è abbattuta con una certa veemenza su Tierra de Lobos, tanto da ridurre la seconda stagione in 10 episodi da 90 minuti contro gli originali 13, gli originali 13 da 70 minuti. Ma nel caso di Cristiana e Isabel, il taglio e cuci ha reso impossibile, nel caso loro, ha reso impossibile, praticamente incomprensibile la loro storia. Ovviamente a furia di tagliare, giustamente, non si capisce più niente della trama narrativa, perché qualcuno si dimentica che mentre taglia delle scene, probabilmente dove succedono delle cose, taglia anche dei dialoghi e comunque fa perdere il senso della storia. Allora sappiamo che non si tratta di un caso isolato, anzi, a ricordare tutti i pazzi per amore con i baci di Eva si ha l'impressione di essere catapultati in un universo parallelo, e proprio per questo dal sito di Let's Pop parte una, diciamo, petizione per far sentire la nostra voce e il nostro disappunto. Siamo consapevoli che il nostro impegno non cambierà le scelte politiche, la censura è sempre politica, lo sapete, vero? Dicono dal sito di Mediaset, in particolare di Rete4, ma da qualche parte bisogna pur sempre incominciare, e noi vogliamo incominciare così, nel nostro piccolo, a far sentire la nostra voce, la nostra indignazione, a chiedere che anche nella TV italiana i personaggi omosessuali e le lesbiche possano godere dello spazio e della stessa visibilità rispetto a tutti gli altri. Quindi se andate sul sito appunto di letspop.it e cercate il post su Tierra de Lobos, troverete anche il link per firmare la petizione. Ma accanto a questa notizia, che in qualche modo, scusatemi, a me mi fa molto molto molto molto sorridere, perché all'estero hanno sdoganato da tempo, anche perché fa anche molto bene al mercato, se vogliamo dirla in maniera molto squallida, avere questo tipo di prodotti editoriali, però tra le DL World, Lip Service e varie altre ed eventuali sparse tra l'altro per tutto il globo, nonché tantissime delle fiction comunque appunto di produzione spagnola, hanno e rappresentano le relazioni tra le lesbiche, noi stiamo ancora al taglia e cuci dei baci, insieme a che qualcuno si impressiona, comunque qualcuno capisce che forse è più divertente in quell'altro modo. Ma comunque, detto questo, ci ascoltiamo Adile, e poi dopo invece vi do una bella notizia, sempre che fa da contraltare a questa, ma prima un brano musicale. You say it's all in my head, and the things I think just don't make sense. So where you been then? Don't go all coy, don't turn it around on me like it's my fault. See, I can see that look in your eyes, the one that shoots at me each and every time. When your heart ain't in it and you're not satisfied. come dice bene Vale, questo è Adil con Cold Shoulder. E adesso la bella notizia, perché se su Rete4 appunto giocano di censura, c'è qualcuna che finalmente si è attrezzata, ovvero LSB, Le ragazze non dormono. Cioè una serie, la prima serie interamente lesbica, con protagoniste tutte appunto delle ragazze, un gruppo di ragazze lesbiche, girata interamente in Italia e che sta per essere lanciata il 26 maggio. Il sito per poter insomma curiosare e avere un po' di spoiler e anteprime su cos'è, cosa non è, è lsbtheserious.com. De, scritto ovviamente de come articolo inglese, series, eccetera. E, la sì, tra l'altro, come arrivare a questa serie non è stato del tutto casuale, come molto spesso accade in questo periodo di connessioni e interconnessioni con vari mezzi, diciamo, di accesso alla rete e comunque di conoscenza di alcune storie, di alcuni percorsi. E ne siamo venuti a conoscenza perché la sigla di questa serie, che è composta da ben 12 puntate, quindi è una cosa seria. Infatti adesso noi proveremo con i nostri potenti mezzi a rintracciare le produttrici e le autrici di questa serie e invitarle in radio, anche perché meritano un attimo di megafono, se non altro per l'impresa. Poi giudicheremo tutte insieme quanto e se ci piace, perché ci piace o perché non ci piace. Insomma, la sigla di questa serie, che si chiama Le ragazze non dormono, è scritta e cantata da una nostra carissima, comunque conoscente e anche amica del martedì, che è Giulia Nania. E quindi questa cosa qui ci è arrivata, insomma, questa notizia in questo modo di traverso, abbiamo scoperto che esattamente è stata girata una serie appunto in Italia con protagoniste tutte ragazze italiane, una serie appunto tutta lesbica, e noi non vediamo l'ora di vedere il risultato. Quindi se da qualche parte qualcuno censura, da qualche altra parte qualcuno invece si attrezza e prova anche in Italia a mettere in campo un immaginario diverso, fruibile per tutte le lesbiche. Quindi noi facciamo tantissimi auguri, insomma, a questa serie e aspettiamo il lancio, che pare sia previsto il grande giorno, il 7 maggio 2013, quindi mancano 21 giorni ancora. Sul sito ci sta il countdown, se andate sul sito troverete anche, diciamo, gli aneddoti sulla sigla, dove è stata girata, appunto c'è un'intervista a Giulia Nania, varie ed eventuali, e quindi attendiamo, magari ci facciamo un'altra puntata apposta di Spirito di Patata, e siamo molto contente di questa notizia, che per una volta appunto prova ad aprire anche in Italia una costruzione di immaginario diverso, e francamente ne abbiamo veramente bisogno, quindi facciamo tantissimi auguri, aspettiamo di vedere i risultati, e intanto ci ascoltiamo Brigitte. tu serais mon lascar superstar. J'ai tellement besoin d'amour. C'est mon pauvre living. Je veux du swing et du bling bling, et que le meilleur gagne sur le ring. Toi mon tout, mon loubar, tu serais mon lascar superstar. Et moi j'ai si peur dans le noir. Pare che questo gruppo che si chiama Brigitte stia spopolando con il solito classico passaparola, che poi è come arrivato a me, non so, casualmente. E carine, vero? Molto, molto, molto orecchiabili, molto piacevoli. E torniamo purtroppo invece a discorsi, come al solito, un po' più pesanti, antipatici. Sempre da un altro blog che noi solitamente comunque teniamo d'occhio e con cui interagiamo abbastanza spesso, un altro genere di comunicazione, che è un blog contro il sessismo, l'omofobia e tutte le diseguaglianze di genere, e ci aiuta sempre a fare insieme, anzi più che altro loro fanno un grandissimo lavoro di monitoraggio sui media e su quello che e su come appunto la rappresentazione delle donne, nonché delle lesbiche appunto e di tutti gli altri, si insomma esprima nei nostri media italiani in termini sia di discorsi, quindi in termini discorsivi, sia in termini pubblicitari, eccetera, eccetera. Nonché, chiaramente, poi la loro attenzione, visto anche che hanno appunto un blog, è rivolta, insomma, a quello che accade anche su internet. Qualche giorno fa, e poi ho visto che la storia non è finita, qualche giorno fa, insomma, hanno pubblicato un post con scritto «Soffri di troiofobia, tra virgolette, curati». E il post parlava di questo, ve lo leggo perché secondo me è un po' emblematico. di appunto alcune cose che poi accadono quotidianamente nel nostro paese. Ieri è accaduto un avvenimento, siamo al 10 aprile, quindi qualche giorno fa. Ieri è accaduto un avvenimento che ha sconvolto mezza Italia. Belen ha partorito, perché sapete che noi ci interessiamo di queste vicende profondamente coinvolgenti per la vita di tutte e tutti. E ne è stato già parlato appunto sul blog in un'altra sezione, dove stiamo tentando di creare una nostra piccola rassegna stampa per evitare di pubblicare notizie con linguaggi e titoli sessisti o fuorvianti. La danza della demenza sessista l'ha aperta Spinoza, sito che si autodefinisce satirico, ma che forse sarebbe più corretto definire battutificio compulsivo, che più di una volta è stato protagonista di scivoloni sessisti e becero moralismo da circolo ricreativo di provincia. Per inciso, da quando in qua dare della troia a qualcuno è satira? Ma ieri anche la nostra pagina è stata inondata di messaggi al limite del grottesco. Nei commenti all'articolo che è stato pubblicato si è scatenato il finimondo. Decine di messaggi ingiuriosi verso Belen e non solo. Qualcuno ha addirittura augurato all'autrice del post che il suo compagno faccia un figlio con Belen, in modo da vedere se ha ancora il coraggio di difenderla. È stato inutile spiegare a questa gente che non si trattava tanto di difendere Belen, ma semplicemente che ci sembrava un comportamento sessista e anche inutile scatenarsi e alludere alla vita sessuale della soubrette. Tra l'altro, puttana e troia erano insulti gettonatissimi. Ora ci riportano anche alcuni dei messaggi e altri che hanno appunto eliminato, ma i messaggi non ve li leggo. Quindi per la signora, se uno fa la meritocrazia, allora non si tratta di sessismo, ma di realtà. Se uno fa questo è in realtà il commento che gli hanno scritto. Se uno fa la meritrice lo fa appunto, ve lo devo leggere perché sennò non si capisce poi l'articolo. Se fosse un uomo che lo fa non ci sarebbe alcuna differenza. Detto ciò stiamo discutendo sul nulla, perché poiché criticare Belen non è sessismo, ma appurare la realtà dei fatti. Se invece di Belen si chiamasse Ruggero sarebbe uguale. Quindi per la signora, se uno fa la meritrice deve beccarsi insulti, ingiurie ed umiliazioni, che tanto si sa, le prostitute sono le valvole di sfogo fisiche e morali di tutti e tutte. È strano come gli italiani e le italiane abbiano un tipo di moralismo a intermittenza. Se noi del blog protestiamo contro situazioni che calpestano la dignità delle donne o normalizzano stupri, sessismo e misoginia, veniamo tacciati di moralismo. Se una manica di signore e signori repressi e astiosi si impicciano della sessualità di questa o quella soubrette, nessuno li chiama moralisti. C'è un fenomeno chiamato, tra virgolette, troiofobia, che colpisce due italiani su tre, senza limiti di età, genere, strato sociale e cultura. Orde di moralisti puntano il dito su ogni donna sessualmente attiva e non castigata, ti scavano nelle mutande, ti contano quelli con cui hai avuto approccio a flirt o rapporti sessuali. Sono assolutamente pericolosi e vanno isolati e ridicolizzati. Questa è l'unica cura. Scaricare le proprie frustrazioni sessuali sulla troia di turno non è un fenomeno solo maschile, anzi è largamente diffuso tra le donne. Parlo di quelle suorine che, cresciute con l'idea del tieni le gambe chiuse se non sei una donnaccia, perseguitano con umiliazione e insulti non solo le Belen, ma tutte quelle che non si sono conformate a una cultura democristiana e maschilista. Il guaio è che molte di queste donne si credono femministe, ma il femminismo non ha mai fatto rima con moralismo. Femminismo è libertà di fare sesso con chi ci pare, non controllare le verginità altrui, non contare gli uomini con cui sei stata a letto, non additare come puttana troia qualsiasi donna che non si comporti secondo certi canoni. Questa caccia alla troia scatena sotto ogni notizia e immagine che le ritrae il valzer di quella donna non mi rappresenta, offende tutte le altre donne. Ma perché mai ci deve essere una donna che ci rappresenti tutte? Credo fortemente nell'individualismo e non mi risulta che gli uomini, guardando Scilipoti, dichiarino mi vergogno di quell'uomo, non ci rappresenta, offende tutti gli uomini. E farebbero anche bene a dirlo, però. Né mi pare che la carriera di Scilipoti sia tanto più linda e dignitosa di quella della Minetti. Perché ci deve essere invece una rappresentante suprema del genere femminile? Io mi dissocio, questa parla l'autrice del post, da questo tipo di femminismo che che non è tale. Il mio femminismo ha delle divisioni in immacolate, vergini, casalinghe, puttane. Il mio femminismo ama le donne e gli uomini liberi, non perseguita, ma critica più che altro chi questi sistemi li ha creati e li ha resi gli unici modi di vivere e di sentirsi vincenti. E questo era uno dei commenti. Ma la cosa pare che sia andata molto avanti, per cui anche l'autrice di questo stesso articolo sia stata ovviamente insultata poi da quelli del forum di Spina, ma non se ne esce più, perché è chiaro, poi ovviamente sul web entri in una spirale da cui non riesci mai più a uscire. E ovviamente è inutile dirvi che hanno usato gli stessi insulti di cui appunto si parlava nell'articolo. E quindi sì, insomma, le situazioni sono sempre queste. Il problema è che abbiamo una fortissima dose di sessismo incorporata nelle nostre idee e rappresentazioni ed è molto difficile venirne fuori. Ma adesso ci ascoltiamo un'altra canzone, così magari ci prende meglio. Sorella ti voleva personal trainer. She is the essence of me. She is concentrating on they. Si è inserita così Patti Smith volante, perché stavo guardando le notizie in giro per il web. Vabbè, volevo ricordare che questo fine settimana, oltre a Kenny Arcana, in realtà c'era a Roma Patti Smith, che in realtà sta curando tutta una rassegna all'interno dell'auditorium, dove domenica ha risuonato per intero The Horses. Non so chi ha avuto la possibilità di andare a sentirla, io devo dire di aver avuto la fortuna, solo che in realtà le uniche notizie che sono uscite su di lei, ahimè, sono del suo incontro con il Papa, perché come sapete Patti Smith, vabbè, a un certo punto anche lei ha avuto dei livelli di folgorazione incomprensibili, ma vabbè, ci possiamo fare, non sempre insomma ci si salva. Sono le 22:49, siete all'ascolto di Spirito di Patata, e se volete scriverci il nostro indirizzo è mfla@ondarossa.info. Vi ricordo che se volete chiamare il martedì dalle 17 alle 23 ci trovate qui ogni martedì, 06 49 17 50. E Spirito di Patata in realtà lo trovate spesso sia su una serie di social network, siti di social network, tra cui quello ultra famoso di Faccia Libro, cioè una pagina nostra che è Spirito di Patata, se ci cercate ci trovate. E poi ogni tanto, alle volte, anche su A Cinguettare qua e là, da qualche parte. E noi ci ascoltiamo in realtà un altro po' di musica prima poi di salutarci e di chiudere questo martedì. Tegan e Sara. Shoulders of perfection, let them drag you straight across and tell me, have we found perfection? I will find lovely lost in them. Someone from a distance, won't you come get a closer look? I can guarantee that licking the package ain't ever quite as good. So they're looking for a new face with a voice to go along. I can tell you right now that ain't my style. I don't do no sing-alongs with my freedom. From the mud it's got to the grudge said, you've got the freedom to walk out if they drag you down. They drag you down. Standing on the edge of a crisis, we decide to raise our own voices. Still know that the sound is our own and the fact that our feet grow up from the ground. And this is where I wanna be. So they get your voice, but they can't. They can never get your soul. Yes, there's a million things about me you will never know. Like they call me on video, then they call me on radio. Yeah, they call me on video, radio, stereo. With my freedom, from the red sky to the ground, said you got the freedom to walk out if they drag you down. You've got the freedom, from the mighty sky to the grunge said, you've got the freedom, walk out if they drag you down. Freedom, from the sky to the ground, you've got the freedom to walk out, walk out. To the rock show. There's no one I'd rather see when you're lying next to me. You say that you never want to go. When you're lying next to me, I say that I want to take it slow. When you're lying next to me. E mentre ci lasciamo i Freeze Pop di sottofondo con Plastic Stars, abbiamo ascoltato Tegan and Sara con Freedom e Cutlow con Kiss the World. Tra l'altro queste canzoni, alcune di queste canzoni fanno parte appunto delle colonne sonore di, appunto, di serie TV come The L Word. E noi ci salutiamo qui, sono le 22.58. Il martedì autogestiva femminista e lesbiche si conclude qui, vi dà appuntamento alla prossima settimana, il 23 aprile, mentre Spirito di Patata tornerà da questi microfoni come di consueto fra 15 giorni, quindi il 30 di aprile, e buonanotte a tutte e a tutti. Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. Say either, and I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might